sempre Radio Onda Rossa, il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Inizia il mini pimer di questa sera con Elisa Giomi, ormai amica, ospite consueta dello studio del martedì. Parliamo oggi di un tuo spin-off, di una ricerca che hai già presentato da questi studi, poi magari rinfreschiamo anche la memoria su quello. E parliamo del femminicidio nelle relazioni intime, nella realtà e nella rappresentazione dei telegiornali italiani. Insomma, un argomento che a noi ovviamente interessa, anche perché, insomma, come chi ascolta la radio lo sa, noi curiamo il GR del martedì facendo proprio una raccolta delle notizie dei femminicidi della settimana, insomma, o comunque di tutte quelle situazioni di aggressione contro le donne, quindi dalle percosse alla persecuzione, eccetera. Sono parecchie, insomma, ho avuto parecchio materiale denso, infatti. Senti, per ricapitolare un po' come nasce, insomma, questa ricerca, tu eri già venuta qui, avevi presentato anche in altre occasioni una interessante ricerca che, appunto, sui media italiani, sui telegiornali e sul modo in cui, appunto, trattavano queste notizie. Questa invece è un po' più... Sì, questa è, appunto, diciamo, uno spin-off, per usare questo termine, dettato da un'evidenza, insomma, che è emersa dalla prima tranche della ricerca, ovvero la marcatissima tendenza di tutti i telegiornali italiani. Noi abbiamo analizzato i tre Rai e i tre Mediaset nell'edizione di prime time, cioè quelle serali, una marcatissima tendenza a sottorappresentare quella che è di fatti la tipologia di femminicidio, uccisione della donna, più comune, ovvero l'uccisione, appunto, entro relazione intima, a favore invece, argomento preferito, insomma, dai notiziari, i casi di femminicidio commessi da aggressore sconosciuto, che sono statisticamente in realtà irrilevanti sul totale, e possibilmente straniero. Quando c'è questa competizione, questa concorrenza di fattori, ci sono proprio dei picchi di innalzamento dell'attenzione mediatica enormi in termini di numero di servizi prodotti, il che andrebbe, diciamo, anche bene, perché è giusto tenere l'attenzione su tutte le forme di violenza contro le donne, se non fosse per il dettaglio che l'aggressore sconosciuto e straniero è solamente uno sui 188 casi che abbiamo registrato noi. Ma non manca, insomma, di generare reazioni isteriche, come si è visto bene, da parte dei governi di destra quanto di sinistra, come nel caso, appunto, dell'uccisione di Giovanna Reggiani, che sta poi alla base la promulgazione di decreti xenofobi, esattamente. Esatto. E questa, sì, questa è, appunto, un focus solo sul femminicidio in relazione intima, di cui ho cercato di rendere conto delle caratteristiche generali nella realtà, quindi tipologia degli aggressori, tipologia delle vittime, nazionalità, età, storia generale, movente e via dicendo, per confrontarle poi con la fotografia che ci restituiscono i telegiornali, e che si può anticipare subito, è una fotografia che tende ovviamente a sottorappresentare fortemente questa categoria, ma anche a darne un'immagine in qualche modo distorta, perché si mette l'attenzione di nuovo su ciò che non è la regola, su ciò che non è la normalità, e quindi, diciamo, questo è un fenomeno molto tipico un po' in tutto il giornalismo: la notiziabilità va a favore dei casi eccezionali, con tutta una serie di implicazioni di senso, insomma, e anche di costruzioni ideologiche che vediamo poi in dettaglio. Sì, questa ricerca, magari lo possiamo già anticipare, uscirà in un volume e ci saranno anche altri autrici. Che... Si tratta di un bel volume, curato da due ricercatrici giovani, insomma, molto brave, Daniela Cherubini e Sveva Magaraggia, che si intitola Donne contro gli uomini, punto interrogativo, le radici della violenza maschile. È in corso di pubblicazione per UTET e comprende interventi a carattere teorico, ma anche una cospicua parte dedicata a soggetti, realtà che operano concretamente e quotidianamente contro la violenza sulle donne. Bene, quindi poi magari amplieremo anche con le altre letture questa tua. Quindi tu hai preso i dati sostanzialmente che avevi raccolto nella tua grossa ricerca nel 2006, li hai scorporati e hai preso, hai guardato con attenzione, insomma, appunto, alle relazioni intime. Sì, forse che... posso spiegare magari, diciamo, che cos'è che c'ha, che mi ha indotto a mettere appunto l'accento su questa tipologia di femminicidio. Dalla ricerca, insomma, svolta fino a questo momento, è emerso, vale la pena di ricordarlo, che le uccisioni di donne in Italia, perlomeno nel 2006, è l'anno in cui si inizia a registrare una, diciamo, tendenza alla costruzione di un'emergenza criminalità con implicazioni xenofobe, quindi siamo partiti da quell'anno lì, le donne uccise sono 188, quindi sono sostanzialmente una uccisa un giorno sì e un giorno no, e di queste 188 noi abbiamo lavorato solo sui 162 casi risolti, altrimenti non era possibile, insomma, fare nessuna considerazione, e ne passano sui notiziari, cioè ne vengono riportate da almeno un telegiornale giusto la metà, 81 appunto, e è interessante la composizione da un punto di vista, diciamo, proprio della relazione fra vittima e autore. Allora si può, diciamo, sintetizzare dicendo che sostanzialmente nella realtà per ogni donna uccisa da un estraneo sono 7 uccise da uno estraneo su 162, sono ben 12 quelle che muoiono nell'ambito di relazioni intime. Se accanto alle relazioni intime consideriamo anche le donne uccise da parente diverso dal marito, fratello, cugino, padre, cioè nipote, eccetera, allora il rapporto sale a 1 a 18, un estraneo per 18 uccise nell'ambito della famiglia, della sfera domestica, della relazione intima. La tipologia delle donne uccise da estraneo è naturalmente quella statisticamente meno incidente, ma è ovviamente quella più appetibile per i notiziari, perché appunto ha un tasso, diciamo, di copertura altissimo, vicino al 70%. Viceversa, le donne che sono uccise entro relazione intima hanno un tasso bassissimo, il più basso in assoluto, cioè ne passano praticamente 4 su 10. Consideriamo che sono 100 quelle uccise entro relazione intima, 100 su 162. Sostanzialmente quello che noi abbiamo fatto in questa prima tranche della ricerca è stato rendere conto della distribuzione quantitativa e poi lavorare da un punto di vista dell'analisi qualitativa sui 7 casi che nel 2006 avevano letteralmente sbancato. Parlo di casi che hanno sbancato perché considerate che il corpus totale dei servizi prodotti a copertura di queste 81 donne notiziate dai telegiornali sono 473. E solo 7 casi su 81 coperti da soli fanno metà del corpus, 250 servizi. Quindi ci siamo chiesti perché, abbiamo analizzato tutti i servizi che coprivano questi casi, abbiamo ricostruito la storia e il dato che è venuto fuori è che ci sono alcuni elementi in comune. Tra questi casi, forse, diciamo, anche per aiutare ascoltatori e ascoltatrici, rientra il caso di Ina Salem, per dire, una ragazza pakistana uccisa dal padre e da altri familiari maschi perché ritenuta troppo occidentale. Oppure c'è anche la strage di Erba, che è uno dei pochissimi casi di tutto il nostro campione in cui l'autore vede una coppia, uomo e donna. Infatti, diciamo, delle 162 vittime del 2006 su cui abbiamo lavorato, in realtà il 95% sono uccisi da mano maschile. Poi ci sono appunto casi di donne che uccidono i neonati e il caso di Erba, e qui sono gli unici che hanno appunto anche un'autrice femminile o solo un'autrice femminile. Abbiamo lavorato appunto su questi casi e quello che è emerso è che tutti quanti avevano in comune il fatto di presentare uno straniero, anzi, per dire la verità, un immigrato, cioè un cittadino non comunitario, tra gli autori o molto più frequentemente tra i sospettati. Tutti i TG sostanzialmente si lanciano in una corsa a evocare letteralmente lo spettro dell'aggressore sconosciuto e immigrato, anche nei casi in cui la polizia ci tiene a ribadire che stanno seguendo un'altra pista. Una sorta, diciamo, di delirio collettivo che mostra proprio come la ipervisibilità data a questi 7 casi sia dettata da una, diciamo, costruzione appunto di un'emergenza criminalità con implicazioni di tipo xenofobo. Quindi ci siamo chiesti, vabbè, ma cosa succede nei giorni feriali? Cioè nei giorni in cui i telegiornali non sono, come dire, stritolati dall'agenda della costruzione appunto dell'emergenza criminalità e dello scontro fra culture, come si comportano, quali sono le logiche, le dinamiche della notiziabilità attuate per coprire, come si dice in termine tecnico, la quotidianità, la ordinarietà e la normalità della violenza contro le donne. E quindi che abbiamo fatto? Abbiamo tolto questi 7 casi dal campione e, tanto per cominciare, appunto abbiamo visto che il corpus totale dei servizi si riduce esattamente di metà e abbiamo lavorato solo sui casi di femminicidio entro relazione intima per vedere appunto quali sono i valori, notizie applicati, quali sono i comportamenti, quali sono sostanzialmente le scelte. È stata un'analisi quantitativa estremamente impegnativa che devo insomma assolutamente all'abilità e alla competenza del collega, compagno di Onda Rossa e amico Dario Fontana, che ha realizzato veramente un'analisi statistica insomma molto efficiente, e abbiamo incrociato tutte le variabili possibili, quindi l'età della vittima, l'età dell'autore, la nazionalità dell'uno, la nazionalità dell'altro, la relazione fra l'uno e l'altro, i moventi, e quindi poi abbiamo visto qual è, diciamo, l'identikit del femminicidio in relazione intima nella realtà e qual è invece la fotografia che ci rappresentano i telegiornali. E forse come prima cosa vale la pena, diciamo, di ribadire la totale sofferenza di questa tipologia di uccisione rispetto alle altre tre, cioè la donna uccisa da parente, da persona conosciuta o da sconosciuto, rispetto alla donna uccisa entro relazioni intime, ha sostanzialmente molte più chance di passare sui notiziari. Sostanzialmente, diciamo, per dare dei dati, le donne uccise entro relazione intima sono 98, tolte le due che appartenevano ai super casi che appunto abbiamo scorporato, ne passano solo 38, cioè il 38,8%, mentre invece le donne uccise da persona conosciuta, altro parente diverso dal marito, persona sconosciuta, sono 54, ma ne passano 33, cioè il loro tasso di copertura è del 61, molto di più delle altre. Tutti gli indicatori indicano appunto una flessione che penalizza fortemente le donne entro relazione intima e che vede nella nazionalità della vittima un fattore molto forte di distorsione, in realtà per entrambi i gruppi. Le italiane uccise da non entro relazione intima passano al 64,5%, mentre invece le straniere uccise non entro relazione intima passano solo al 33%. Anche per le donne uccise entro relazione intima abbiamo la stessa discrepanza fra straniere e italiane, un po' meno accentuata: le italiane passano al 40% e le straniere per niente. Se guardiamo il numero di servizi, il gap veramente è enorme. Sostanzialmente le donne straniere hanno, in linea di massima per sintetizzare, il 70% di possibilità in meno di essere riportate da un telegiornale di quanto non abbiano appunto le italiane, e da un punto di vista del numero dei servizi che i 6 telegiornali dedicano a ciascuna vittima rispettivamente, abbiamo dei gap molto forti. Cioè, nel caso delle donne uccise entro relazione intima abbiamo 3 servizi a testa in media per le italiane e, diciamo, poco più di 1,5 per le straniere. Se guardiamo al gruppo delle donne uccise non entro relazione intima, lo stesso, un gap molto forte, ancora più forte: 3,6 per le italiane e 0,5 servizi, cioè manco un servizio a testa appunto per le straniere. Altrettanto accade se guardiamo la relazione in termini di appartenenza etnica tra autore e vittima, un dato molto noto. Noi abbiamo pochi casi, però comunque sono interessanti. Allora, di tutte le possibili combinazioni, l'italiano che uccide l'italiana, lo straniero che uccide la straniera, lo straniero che uccide l'italiana e l'italiano che uccide la straniera, indovinate qual è la categoria, l'unica categoria che ottiene il 100% di copertura? L'italiano ucciso da stranieri. Ma che brave, siete preparatissime. Siamo preparate. Esattamente, abbiamo poche occorrenze, quindi non sono possibili generalizzazioni statistiche, però questo è quello che emerge. Sia nel gruppo delle donne uccise entro relazione intima, lui italiano, lei straniera, scusate, lui straniero, lei italiana, sia nel gruppo delle donne uccise non dentro relazione intima, sempre lui straniero, lei italiana, abbiamo tre casi, e tre casi tutti passano al 100%. Lo spettro dello straniero che uccide, diciamo, sull'onda della sua cultura barbara e feroce, delle sue pulsioni sessuali irrefrenabili, che è sostanzialmente lo stereotipo evocato veramente da sempre nella costruzione di uno scontro di civiltà e nella retorica patriottica identitaria, è uno stereotipo in qualche modo totalmente sganciato da ogni dato empirico, perché almeno stando ai nostri dati, se noi guardiamo ciò che accade fuori dall'ambito delle relazioni intime, gli stranieri che uccidono un'italiana sono rumeni, e forse anche a questo si deve la massima visibilità ottenuta da questi casi, che uccidono a scopo di rapina e fanno fuori due anziane signore in due di questi casi, con la copertura e con la complicità della badante, però poi chi materialmente realizza il delitto è sempre un uomo. Il terzo caso, di nuovo una rapina, un uomo che uccide una donna proprietaria di una gioielleria per appunto ragioni di tipo economico. Questo è proprio, diciamo, un dato molto evidente. Anche per quanto riguarda le altre categorie si nota la stessa sproporzione, cioè nella relazione intima le italiane uccise da italiano sono la maggior parte, parliamo di 77 casi su 98, di cui si riporta quasi il 40%, mentre invece il contrario non accade mai, cioè lo straniero che uccide la straniera è la categoria più misconsiderata in entrambi i gruppi, relazione intima e uccisione dentro altra tipologia. Lo straniero che uccide la straniera, per quanto riguarda le relazioni intime, vede sempre delle coppie, come dire, anche appartenenti alla stessa comunità etnica o comunque alla stessa comunità, diciamo, culturale e linguistica. Abbiamo il marocchino che uccide la compagna marocchina, il tunisino che uccide la moglie tunisina, il moldavo che uccide la moldava e via dicendo. Sono 10 casi di questo tipo, ne passano solo 3, che è in assoluto, diciamo, la combinazione di nazionalità vittima e autore più sottorappresentata. In termini di servizi il gap aumenta ulteriormente, cioè mentre le donne italiane uccise dal marito, compagno, ex tale italiano ottengono più di 3 servizi a testa, le donne straniere uccise dal compagno ex tale straniero ottengono un servizio e mezzo a testa, cioè esattamente la metà delle altre, per cui poi andando a lavorare anche sui servizi, diciamo, l'ampiezza della copertura dedicata a questi casi testimonia ulteriormente di una distorsione appunto che penalizza regolarmente ciò che accade evidentemente tra quelli che sono ritenuti degli altri. Sì, facciamo allora un piccolo stacco musicale e torniamo a parlare. Bastam 15 segundos para acontecer neste imenso Brasil a vítima. Pode ser você. Homens exercem a força, exercem o poder. A sociedade fecha os olhos, pois ninguém quer ver. Legitimando só porque acontece a todo momento. Vamos continuar lutando pelo direito. Afinal, em briga de marido e mulher, sabe como é. Ninguém mete a colher, assim eu não aguento. O silêncio é um cúmplice artificial. Não considere a violência natural. E não falo apenas do estupro ou da física, pois aparecem muitas outras na estatística. Espancamento, ofensa, tortura psicológica. Impedir de sair, ir e vir, não tem lógica. Morreram muitas outras, ficaram inválidas. A lei que pune se resume em cestas básicas. É preciso investir na não violência. Despertar na população plena consciência. Exigir efetivas providências do Congresso. Brasileiras sempre contribuem para o progresso. Minas a rimar, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Lágrimas descem meu olho, incha que amargura assina. Surra na cara, de baixo pra cima. Se eu contar ninguém acredita. Porrada do quarto, a pia, martírio diário. Será que alguém me liga? Na frente das crianças, não. Tenha coração, compaixão, consciência. É frágil minha situação, não. Sua voz era macia, agora são socos, chutes e pontapés na minha barriga. Clemência, vem da infância esse abuso em mim. Saia de mim, não faz assim, respeite o que tenho aqui. Dentro, um fruto nosso, você se destrói no copo. acaba com o que é nosso, por isso mais não posso. Lágrimas descem, gotas de sangue e choro. Pra você é apenas mais um corpo roxo. Meu sofrimento marcado, estampado no rosto. Isso pra mim é dor, sofrimento e desgosto. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Na luta por direitos, mulheres sempre unidas. Esse é o lema das minas da rima. Marcando pesado e indo pra cima. Qualquer violência, independente de quem se origina, estamos de olho, se liga na rima. Pense bastante ao levantar sua mão. Bater nem por brincadeira, a cadeia é pequena. Pra você, pra todo mundo que não tem consciência. Nenhuma cesta básica vai tirar os hematomas. Ela caiu, bateu a cabeça, ninguém viu. É uma zona de guerra entre os sexos e a justiça não é cega. Abriram uma fresta no meio da sua testa. Mesmo assim só observo o que interessa pra alguns bolsos. Projetos de leis parados e a violência comendo solta. Insistindo mulherada na votação e aprovação dessas leis que estão paradas. Vamos fazer pressão, violência nunca mais. Fique esperto, cidadão. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. Minas da rima, pode crer assim que é. Contra a violência, a favor da mulher. E dunque ritorniamo nello studio per la mini primavera di oggi. Si tratta di la rappresentazione dei femminicidi nei telegiornali. Fino adesso, da tutti i dati che ci ha detto, non è che scopriamo qualcosa che non sapevamo, ma comunque si vede è sempre per me, penso, è importante di avere i dati precisi di qualcosa che sospettiamo, vediamo quando analizziamo la violenza sulle donne. Comunque dai telegiornali si prova a proteggere alcuni concetti, alcune politiche di forza che sono che il pericolo è uno straniero, anche se in 2006 uno straniero solo ha ucciso un'italiana. E poi l'altra cosa è che le donne devono rimanere a casa perché il pericolo è fuori, visto che c'è una sopravvisibilizzazione della violenza che è fuori dei muri domestici, qualcosa che diciamo sempre, ma veramente con i dati sì. È come se. E poi l'altra cosa che è comunque il fatto di nascondere che la relazione eterosessuale e l'eterosessualità obbligatoria è un pericolo per le donne, quando infatti si mette molto più l'accento su i familiari, i parenti che uccidono le donne che su i compagni, i mariti che lo fanno dentro casa, anche se sono più numerosi. Vogliamo continuare su la ricerca che ha fatto Elisa, come? Giomi. E tu volevi parlare un po' di... Un altro parametro sì. Molto importante è quello dell'età della vittima, ed è, diciamo, l'unico parametro rispetto a cui siamo riusciti a individuare una regolarità dei nel comportamento dei notiziari, nel senso che per quanto riguarda il femminicidio entro la relazione intima, la notiziabilità, cioè la possibilità che appunto queste vittime passino sui telegiornali, cresce in maniera inversamente proporzionale all'età, ovvero più sono anziane meno vengono riportati dai telegiornali. Il risultato è che le tre vittime sotto i 20 anni passano al 100%, passano tutte e tre. Le 35 vittime comprese tra i 20 e i 40 anni passano al 60%, le 40 vittime, vedete che cresce sempre di più il numero delle vittime esattamente, le 40 vittime comprese tra i 40 e i 60 anni, che è in assoluto la tipologia più cospicua, più numerosa nella realtà, passano solo al 35%. Se andiamo a vedere quello che accade per le donne oltre 60 anni, troviamo 20 donne oltre 60 anni uccise da marito, ex marito, eccetera, e non ne passa nemmeno una. Quindi c'è proprio, diciamo, una forbice ampissima tra l'attenzione tributata dai notiziari alle vittime giovani e quella invece alle vittime anziane. Anche in termini di numero dei servizi vediamo che le giovinette, diciamo sotto i 20 anni, prendono oltre 3 servizi in media a testa, mentre invece il numero dei servizi decresce all'aumentare appunto dell'età, indipendentemente dal fatto che si tratti di categorie di età, di classe di età che in realtà sono molto più popolose rispetto alle under 20. Insomma, questo accade anche nel caso del femminicidio non dentro relazione intima, dove di nuovo le donne sopra i 60 anni sono qui addirittura la categoria proprio più numerosa in assoluto, uccise da altro parente, uccise da persona conosciuta, uccise da sconosciuto, sono 25, ne passa più o meno la metà. Quindi praticamente si registra di nuovo, rispetto a tutte le variabili, a tutti gli indicatori, c'è sempre una penalizzazione del femminicidio dentro relazione intima, ma c'è una coerenza dei criteri dei telegiornali rispetto almeno alla nazionalità della vittima e appunto all'età, per cui sia che si tratti di femminicidio dentro relazione intima che di femminicidio non dentro relazione intima, se sei straniera e sei oltre 60 anni, cioè proprio non c'hai nessuna possibilità di passare, o comunque ne hai in misura assolutamente ridotta rispetto alle compagne di sventura italiane e più giovani. Un dato che invece sembra, un elemento che invece sembra garantire la notiziabilità sicura, nemmeno a dirlo, è la presenza di vittime multiple, e questo è, diciamo, un fenomeno abbastanza tipico un po' in tutta la cronaca nera, cioè se c'è il pluriomicidio ovviamente vende di più. Infatti noi abbiamo sostanzialmente 7 casi di uomini che dentro il femminicidio in relazione intima uccidono anche altre persone, e si tratta naturalmente sempre dei figli, tranne che in un caso in cui lui, non accettato da quella che ha deciso debba essere la sua fidanzata, una ragazzina di 19 anni, insomma, questa non lo vuole, non è assolutamente interessata a lui, la sgozza dentro un parco, poi fugge in taxi e uccide anche il tassista. Allora, nemmeno a dirlo, naturalmente questo caso, che ha degli elementi di eccezionalità, l'insolito mezzo di fuga, il clamore, l'elemento così un po' rocambolesco, ottiene il massimo dei servizi, mentre invece le donne uccise dentro relazione intima assieme ai propri figli, pur venendo riportate almeno da un notiziario, ottengono un numero di servizi inferiore. Un dato che invece ci ha molto sorpreso è quello relativo alla efferatezza dell'omicidio. Abbiamo considerato efferata l'uccisione realizzata con armi o con modalità che denotano crudeltà e accanimento nei confronti della vittima, e sui 98 casi esaminati sono 58 che presentano questa proprietà. Penso che possa valere la pena, insomma, anche ricordarlo, come sono compiuti materialmente questi omicidi, anche, diciamo, per restituire una realtà che la stampa spesso non ci consegna. Sostanzialmente abbiamo appunto 58 delitti efferati, nella maggior parte dei casi sono 32 su 58 l'uomo uccide con un coltello, e sempre in modalità efferate. Qui le abbiamo considerate, abbiamo dovuto fare anche questi calcoli veramente un po' della serva, quegli omicidi in cui, diciamo, lui colpisce con un numero di fendenti superiori a 4 o 5 e senza colpire gli organi vitali. La distinzione non è di lana caprina, perché devo dirvi che ci sono dei casi in cui si arriva a 28 coltellate, a coltellate scagliate sul viso, sui piedi, sulle mani, cioè proprio con grande accanimento. La seconda arma, diciamo, prediletta è la pistola, e questa è la morte migliore, fra virgolette, nel senso che è quella più indolore. Ci sono però anche qui almeno 4 casi considerabili come efferati, perché lui spara intenzionalmente, pur essendo vicinissimo a lei, non agli organi vitali, cioè spara al volto, spara alle gambe, spara a casaccio o gli scarica addosso l'intero revolver, in una specie di così delirio veramente macista e efferato. Abbiamo poi tutta una casistica, diciamo, molto variegata e altrettanto atroce, quella delle morti prodotte con martello o con altro corpo contundente. 5 con martello, 5 con altro corpo contundente, tra cui figura, bastone, asse di legno, spranga e persino zappa. Sono ovviamente tutte efferate. Abbiamo 12 fra strangolamenti e soffocamenti, e queste sono, diciamo, anche qui quelle meno efferate. Abbiamo considerato 3 efferate, nel senso che la modalità, appunto, o il contesto denotano ferocia. Ad esempio, lui prende il cavo dell'aspirapolvere e la avvolge tutta nel cavo dell'aspirapolvere, oppure la uccide a mani nude dopo averla inseguita, picchiata, e quindi lo strangolamento arriva alla fine di un'escalation di violenze, e anche davanti ai bambini. Un altro tipo di soffocamento, vabbè, la gente comunque veramente proprio sta male, con mozziconi di sigaretta infilati a forza nella trachea della vittima. Insisto su questi dettagli non per amore di splatter, ma anche per, come dire, cioè, dire che cosa succede poi fuori dalla visibilità, dal cono di luce offerto dai telegiornali o dalla stampa. Sono ovviamente 8 le morti per cosse, tutte efferate, su cui invece vi risparmio i dettagli. E poi abbiamo un avvelenamento, che anche questo, diciamo, invece non è efferato. I restanti delitti sono veramente, come dire, una, cioè, proprio cronistoria dei problemi dell'ego, della virilità e del senso proprietario maschile. Lui che, rifiutato da lei, la carica su una macchina e, dopo aver minacciato più volte, anche in presenza di testimoni, che se la sarebbe portata all'inferno se lei non avesse accettato, si lancia in un dirupo con la macchina, uccidendo se stesso e anche lei. Abbiamo dei dissanguamenti prodotti con colpi di cacciavite, di taglierino alla gola. Al taglierino lui fa una comparsata nell'ufficio dove lavora lei, entrambi famiglie bene, ben posti, ben retribuiti, eccetera, e la sgozza col taglierino in presenza di altri testimoni. Abbiamo un caso di impiccagione della compagna, un caso di decapitazione della compagna, anche questo preceduto da più minacce, ti taglierò la testa, e infine persino un caso di smembramento tramite motosega. Ora, la cosa che ci ha colpito è che se alcuni, diciamo, di questi delitti più eclatanti e più curiosi, come sicuramente sarebbero stati rubricati, ad esempio motoseghe, decapitazioni e soffocamento con le sigarette, passano effettivamente sui notiziari, più di metà dei delitti efferati non fa assolutamente notizia. Cioè, ad esempio, le donne percosse a mani nude o con oggetti contundenti, e tutte, praticamente 2/3 di quelle uccise a coltellate, che è appunto la modalità più comune, non passano. Sembra, insomma, figurarsi un tipo di logica per cui ciò che più è ordinario meno passa sui notiziari. Sono uccise con modalità efferate 6 donne su 10, ma ne passano meno della metà. Altrettanto dicasi per i casi di omicidio-suicidio, che è una caratteristica proprio, come dire, tipica e distintiva dell'omicidio entro relazione intima rispetto ad altri omicidi. Lui non può averla, quindi decide che non vuole vivere senza di lei, non prima di averla fatta fuori, oppure più probabilmente dimentico di vivere in Italia, teme una severa condanna per il delitto e quindi si uccide subito dopo. Sono 4 su 10 casi di questo tipo, alcuni includono appunto anche stragi familiari, però passano con una percentuale bassissima. Di nuovo, il dato comune, l'elemento ricorrente, non fa notizia, non sfonda, diciamo, le classifiche dei telegiornali. Forse, diciamo, la riflessione, l'ultimo dato che posso presentare, che ci consente di entrare un po' più nel dettaglio proprio delle dinamiche relazionali e del tipo di storie di cui è piena l'Italia, è la riflessione appunto sui moventi. Ho distinto fra 5 tipologie di moventi ricavate dalla lettura degli articoli stampa che parlavano di questi delitti e dal confronto con 2 ricerche uscite nello stesso anno. Una è Amorosi assassini e un'altra è una ricerca a cura della Casa per non subire violenza di Bologna. Entrambe riportano molti articoli di giornale, però appunto, dimostrazione della difficoltà a reperire i dati, hanno un corpus totale di vittime molto inferiore al nostro, 100 e 111, dimostrazione che è veramente difficile avere una panoramica completa rispetto al nostro 188, sì. però includono anche donne che hanno subito aggressioni sessuali, stupri, insomma, reati sessuali di varia natura. Qui sono invece parliamo di omicidi, qui parliamo uccisioni. Solo dell'omicidio sostanzialmente, e sostanzialmente diciamo sono tutti riconducibili alla stessa matrice questi moventi, però mi sembrava utile dividerli nel modo in cui ho proposto. C'è una prima tipologia che è quella assolutamente più rappresentata, 41 vittime su 98, e è la tipologia che la stampa tuttora ama definire come dramma della gelosia, delitto passionale, tragedia della gelosia, concedendo così comunque automaticamente delle attenuanti al comportamento dell'assassino in modo poi non troppo dissimile da ciò che avveniva con il delitto d'onore, insomma. La storia è sempre la stessa, con pochissime varianti. Abbiamo deciso di chiamarla possesso perché si tratta sempre di un'uccisione che è, diciamo, dettata dall'incapacità dell'uomo di accettare il rifiuto o anche i comportamenti e le scelte della compagna, inclusa soprattutto la scelta di interrompere la relazione. Compagna che lui evidentemente ritiene sua proprietà, appendice personale e comunque soggetto di cui disporre. E la storia appunto è sempre la stessa: lui non accetta la separazione dopo un matrimonio di lunghissima durata, così come dopo una brevissima relazione, oppure non accetta che lei abbia un nuovo compagno, o ancora lui attribuisce a lei tutta una serie di presunte infedeltà e in ogni caso ne è morbosamente geloso. Molto interessante vedere che cos'è che determina la gelosia di lui. Naturalmente è appunto il suo ego e la sua identità sociale e sessuale, però nelle dichiarazioni rese agli inquirenti, a volte riportate anche in sede processuale, lui con grande candore e sicurezza ammette che lei si comportava male perché non gli obbediva e faceva cose che sapeva benissimo infastidirlo, ad esempio uscire molto truccata, uscire con vestiti stretti e scollati, no? Trovate veramente tante di storie così, movente che attraversa confini geografici e culturali e che ritorna naturalmente anche in altre culture. Allora il musulmano che fa fuori la moglie perché appunto è uscita con, questo dichiarato proprio in sede processuale, è uscita con 3 collanine con i pendenti, mentre lui gli aveva chiesto più volte di non sfoggiare appunto questi oggetti. Non ci sono differenze praticamente tra italiani e stranieri da questo punto di vista. E comunque l'idea è di individualizzare, no? Non di farlo vedere come un problema sociale, ma comunque di un problema di individui che comunque no, vanno fuori testa per alcune ragioni che anche alcune possono essere capite, no? Nel senso, c'è qualcosa che riferisce, infatti la domanda, cioè non è che quando si parla di un fatto, di un'uccisione di una donna, immagino che non è mai riportato al numero di uccisioni che esiste, che succede in Italia o nel mondo. Cioè è sempre l'informazione è data su come, perché, a livello individuale. Sempre sul singolo caso, sì. In realtà la tendenza a generalizzare, a contestualizzare si trova molto quando l'aggressore è straniero, e questo è un fenomeno ampiamente rilevato proprio in tutta la letteratura di settore, cioè l'utilizzo proprio di 2 pesi e 2 misure. Quando è un aggressore bianco, diciamo così, sia che la vittima sia nera che black, insomma dicono loro non bianca, insomma, sia che invece sia bianca, allora se lui è bianco il problema naturalmente è sempre di natura individuale, e anche nelle condanne più feroci da parte della stampa troviamo al massimo la categoria della aberrazione, però sempre rigorosamente di tipo individuale, declinata nella forma della follia, del raptus, della violenza della psiche e via dicendo. Quando invece l'aggressore è di minoranza etnica, insomma comunque nero, non bianco, banalmente non bianco, regolarmente c'è una generalizzazione, si esce dall'individualizzazione, lui agisce per effetto appunto dei dettami, delle prescrizioni di una religione barbara e feroce, o semplicemente di una cultura di appartenenza, di una civiltà di appartenenza non evoluta come la nostra. E anche dunque sottolinea il problema dell'immigrazione, no? Non lo so, da che cosa ho sentito, perché non è che l'ascolto tantissimo il giornale italiano, ma in Francia cioè, certo che ci sono gli stessi fenomeni, e subito dopo o parallelamente comunque si parla di queste uccisioni e del problema generale dell'immigrazione. Dunque lì la cosa al generale è spinta. Sì, sì, cioè il corpo femminile qui è proprio utilizzato, questo è il risultato della prima ricerca che ho svolto, con un dispositivo diciamo di controllo sociale da un lato, perché il messaggio che viene dato è che le donne non devono girare per strada da sole, che il territorio urbano è un territorio denso di insidie e pericoli rappresentati da questi generici sconosciuti neri, e quindi territorio da presidiare con telecamere di sorveglianza, ronde cittadine, presidi militari e quant'altro. E d'altronde l'altro messaggio che viene dato è che il nemico pubblico numero uno è lo straniero, quando poi veramente, cioè, i dati parlano, il numero di, anche in rapporto alla popolazione straniera in Italia, il numero dei delitti compiuti dagli stranieri è assolutamente non statisticamente rilevante, insomma è proprio la costruzione diciamo di uno spettro, certo. E quindi proseguendo sui moventi, questo movente possesso, nemmeno a dirlo, registra tra i valori più alti sia per la variabile efferatezza, cioè il delitto passionale come lo chiama la stampa, è anche un delitto normalmente molto efferato, la correlazione è altissima, e registra però anche un numero abbastanza elevato di suicidi dell'autore, per le ragioni che dicevamo, nel senso che non voglio più vivere senza di te, ma forse anche mi faranno il mazzo se mi scoprono, mi suicido. Il secondo movente più frequente è quello che in genere viene chiamato conflittualità, cioè quello che la stampa chiama litigio o litigio, che noi abbiamo chiamato conflittualità. E qui è molto interessante perché è diciamo 19 donne, quindi poco meno del 20%, e questo è una tipologia di delitto in cui si registra un numero elevatissimo di denunce e provvedimenti presi dalle autorità a carico dell'interessato, che è spesso un pregiudicato, è classificato come psicotico violento, è stato responsabile di altri delitti, a volte anche dello stesso tipo, uomini che uccidono più mogli, insomma. Anche in questo caso sostanzialmente abbiamo un elevato tasso di efferatezza, e quello che mi ha colpito è che negli articoli riportati dalla stampa questi delitti sono sempre presentati come, per tornare a quello che diceva Sylvie, come gesti indotti da problemi dell'uomo, che sarebbero abuso di alcol, mancanza di lavoro, depressione o da disagi economici della coppia. Quindi a originare questi sistematici contrasti, così come il litigio dall'esito fatale, sempre secondo le ricostruzioni della stampa, sarebbe l'atteggiamento della donna, che lamenta i comportamenti del compagno, lo critica per la sua erronea amministrazione delle finanze e l'incapacità di provvedere ai bisogni della famiglia. Sostanzialmente, diciamo, in queste storie si scorge bene una dinamica tale per cui lei diviene la valvola di sfogo del malessere e della frustrazione dell'uomo, o piuttosto diviene uno scomodo specchio da eliminare perché rimanda puntualmente l'immagine del proprio fallimento, della propria incapacità, della propria inadempienza. Infatti questa è la tipologia di delitto con l'efferatezza più elevata, praticamente sono elevati sono efferati il 90% dei delitti con questo movente. Poi ce n'è un altro che nella stampa viene sempre accomunato al delitto passionale, ma che ho deciso di scorporare perché in realtà ci racconta una dinamica opposta, cioè è lui che vuole sbolognare lei, ma lei glielo impedisce. L'ho chiamato controllo perché abbiamo sostanzialmente a che vedere sempre con casi in cui lei viene rimossa perché costituisce un ostacolo al compimento del progetto personale di lui, di qualunque natura sia, impossessarsi dell'eredità, lasciarla per tornare con la famiglia, o piuttosto impedirle di portare avanti la gravidanza, questo in 3 casi addirittura, quindi viene fatta fuori per questo motivo, e anche qui naturalmente è molto efferato. Poi c'è una tipologia che si chiama problemi psichici, e sono veramente problemi psichici nel senso che non è il caso classico della stampa, raptus, momenti, 5 minuti di follia, annebbiamento della ragione, no. Si tratta di uomini su cui c'è una diagnosi, diciamo, o una storia clinica di instabilità mentale a diverso titolo. Allora, diciamo, l'origine di questa malattia mentale è la più varia, ma la precisione, la nettezza con cui questi uomini scelgono il loro obiettivo è, come dire, altrettanto notevole. È questo che mi colpisce sempre, no? Cioè, allora lei diventa valvola di sfogo delle frustrazioni, dell'incapacità, ma diventa anche, come dire, il supporto su cui incarnare, su cui proiettare i fantasmi della psiche. Ci sono storie di lui che la uccide perché ritiene che lei gli faccia il malocchio, oppure la uccide perché secondo lui lei fa parte di una setta satanista, oppure la uccide perché si convince con manie di persecuzione che lei voglia ucciderlo. Insomma, diciamo, è sempre dentro la relazione intima, dentro dinamiche, come dire, inveterate, sclerotizzate, che si generano poi le occasioni per concretizzare, per mettere in atto quelle che in alcuni casi sì sono veramente diagnosticate come turbe mentali, insomma. E poi c'è un altro movente ancora, e con questo chiudo, perché su questo che poi volevo fare una riflessione generale, sentire che cosa ne pensate, che è il delitto per disperazione. Coinvolge 13 coppie, e sono tutte over 60, tranne due casi di 45-55 anni. L'ho chiamato per disperazione perché effettivamente c'è la disperazione, nel senso che si tratta di uomini che per diverse ragioni sono afflitti da angoscia per il destino comune e quindi deliberano una sorta di eutanasia per sé e per la moglie. Non sono preoccupati perché magari lei è rimasta inferma e quindi non può più pensare né a se stessa né a lui, oppure lei ha l'Alzheimer, è destinata a una struttura di ricovero e lui non tollera l'idea di separarsi, o ancora lei è paralizzata e malata e lui la accudisce da molto tempo ma adesso non regge più il carico. Sono tutte morti non efferate, in cui lui spara a lei spesso nel sonno e poi spara a se stesso, lascia un biglietto di scuse e spiegazioni ai figli o a terzi. Quindi storie di depressioni, storie di paura per il destino comune e di incapacità di gestirlo. Si tratta, diciamo, di un tipo di movente diverso dagli altri, se vogliamo in qualche modo più nobile, però quello che sostengo nelle conclusioni è che anche questo sia un po' riconducibile alla stessa matrice culturale, nel senso che abbiamo ancora una volta un uomo che si erige, come dire, a arbitro della vita e della morte di qualcuno che ritiene una propria appendice, letteralmente. Tra l'altro, le storie che ho analizzato sono storie che ci raccontano di come questa disperazione si origini sempre entro la relazione di cura, o per via della diciamo indisponibilità di lei, incapacità di lei a curare, a fare quello che ha sempre fatto, oppure per l'invertirsi della direzione abituale di questa relazione, cioè un lui che accudisce lei e che non ne regge il carico. Sono quindi, diciamo, due dinamiche speculari, sempre con lo stesso esito, però un esito che probabilmente solo un uomo che è più culturalmente esercitato e legittimato a esercitare violenza, anche se non è mai stato un uomo violento, un esito che solo un uomo può tradurre nella morte. Non ci risultano casi opposti, cioè in cui donne che accudiscono gli uomini più anziani decidano di far fuori se stesse e loro. Siamo quasi alla conclusione della trasmissione. Insomma, abbiamo capito che leggendo i giornali e guardando i TG non abbiamo la rappresentazione effettiva di che cos'è la realtà, appunto, della violenza degli uomini contro le donne. Silvi, prego. Ma che invece si vede bene lo scopo dello sistema e dei media come complici dello sistema di uccisione delle donne, se posso dire.